Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. Dal suo rifugio di Caserta, Neville, arroccato nella casa del duca, aveva assistito, o credeva che quasi lo stesso, all'intera scena, in parte tramite la lente magica che il duca manovrava come un binocolo, puntandola verso sud-ovest, in parte affidandosi alla sua esasperatissima immaginazione, e in questa onestamente credeva un po' meno e aveva ragione. Ma soprattutto si trovò ragguagliato della conclusione a causa di certe chiacchiere che giunsero il mattino appresso da Napoli, e la sua informazione ne fu arricchita quindi in retrospettiva, tramite quella sarta, signora Benincasa, che si era trovata al pallonetto quel tragico momento per la prova dell'abito e che era anche sarta della marchesa Durante. Ella, Olinda Benincasa, aveva riferito tutto la sera stessa alla marchesa, che n'informò il suo amante più fidato, Cavalier del Giorno, il quale, a sua volta, ne discusse con un tale Bartolomeo Percoco, servo di posta, altrettanto fidato, che aveva però conoscenze utili tra il servidorame del duca. Dettagliatamente Neville ne fu edotto, prima ancora come giusto lo fu il suo ospite, e alle 10 del mattino dopo si ebbe la storia con tutti i particolari insieme alle brioche col miele, al caffè e al monitore locale, che ben poco lo interessava. Cadde come un gran vento a sentire tante, almeno apparenti, contraddizioni e scempiaggini. La bruttezza di Flori, se si trattava della stessa sorella, o l'invenzione di una cattiva, sgradevole soricinella, e tutta la storia pietosa riguardante sia il cardillo che la misteriosa piccina. Cadde in una specie di mortificato stupore tutta l'ira di quel gran signore, e in qualche modo divenne meno aspro a causa del disprezzo il suo malevolo sentimento per il Mina, che gli dichiarò al duca di considerare senza scampo, dopo quanto aveva udito, la più incredibile bigotta, non solo legittimista e mezza calza di Napoli, a parte la sua prodigiosa facoltà di mentire. Come? La felicità è male. Amare le creature è male. Solo il dolore si deve amare, il resto è peccato, e che ne avrebbe fatto a questo punto del Dupré? Ma già, l'uomo era perduto. Sola differenza faceva adesso, nell'animo di Neville, il suo atteggiamento verso la prevista sciagura, meritata, più che meritata. Quasi dava ragione a Delmina, non si devono amare le creature, troppo aveva amato Albert, non voleva più intervenire. Ciò ascoltando, il duca sorrideva. «Mio caro, tu non la pensi esattamente così», fece. «Lasciamelo dire, e lascia che ti confessi la mia persuasione. Tu sei triste, commosso, deluso. Tu ami ancora quella poveretta, benché un po' meno, a causa della sua fortuna, Alberto Dupré. Ebbene, ti sbagli». Non voglio dirti di più perché riconosco di non saperlo e forse di non volerlo. Dio non mi permise, facendomi questi doni che anche tu conosci, e non lo permise a te, di giungere fino a sollevare il velario dei giorni futuri. Mi consentì solo di vedere per brevi attimi i fatti e di udire le parole, ma a frammenti di eventi in corso o già passati, non di discernere i loro interni, veri, moventi o atroci legami. Non mi permise, e non lo permise a te, di giungere fino a incontrare e guardare negli occhi i terribili giorni futuri. E lì dorme il segreto e riposa la verità finale, in quanto solo nelle conclusioni è custodito il vero di una vita e, Qualunque sia stato il suo inizio, si svela il destino. Ne ringrazio il medesimo Dio, almeno in questo caso, perché, ecco, provo ogni volta che dico Dupré, Albert Dupré, provo una sensazione che non so definire, di freddo e malinconia mortale o di gioia. Da 2 giorni la provo. A questi 2 giovani voglio bene, pur non conoscendoli personalmente, come a 2 creature innocenti, sì, supremamente innocenti, anche se confuse e spesso superbe come Elmina. Esse, come tutti, vanno come in volo, radiose e soddisfatte nella prima luce del mattino. Ancora non vedono il carico che per esse si prepara, ma non farmi parlare. Oh, per questo... «Tale carità è per tutti», rispose non benevolmente Neville. «Secondo me, adesso», continuò il duca, «tu, mio caro, dovresti dimenticare il tuo piccolo dolore in questa vicenda. E, come già facesti in modo che io ampiamente approvai giorni fa, mostrarti elegante e benevolo». «E come?» disse il commosso Ingmar. «Non so bene, non vorrei impicciarmi, ma se te la senti, torna ancora a Napoli. Sabato 31 sono le nozze, manca dunque più di 1 giorno, e manda un nuovo messaggio, ma pentito, sincero messaggio, al palazzo di Don Mariano, un pensiero affettuoso e degno che cancelli il primo e assicuri che sei in pace con loro e auguri tutta la fortuna. Inoltre...» «Inoltre?» chiese Ingmar. «È un mio pensiero, bada, non un consiglio. Recati, se puoi, al cimitero maggiore di Napoli. Ve ne sono 2, contigui, quello in basso, più grande, e dei poveri, più in alto, e di minori dimensioni, come nel nostro vivere, il luogo di riposo dei signori. Ti suggerisco di fermarti al confine, segnato da una breve scala che collega i 2 diversi livelli o anche stati finali. Nel cimitero superiore, ordine, luce, bellezza, nell'altro, lì, su quel confine, non guardare in basso, è il luogo che ti esorto a visitare. Vacci, non appena arrivi, con l'avvocato Liborio Apparente. Don Liborio è mio amico, ti faccio un biglietto per lui, e cercate e fermatevi insieme alla cappella vecchia, o cappella di famiglia di Messie Civile. La prima che incontri, subito sul viale, a destra, è assai piccola e modesta, non meravigliarti. Ve n'è un'altra più grande, che gli intestò anni or sono, fatta erigere apposta e opera di un artista eccelso, a donna Brigitte Helm, il suo unico amore. Questa interessa meno. Là, alla prima, riceverete, o riceverai tu solo se sai guardare leggendo le iscrizioni, più informazioni di quante te ne potrebbero venire dall'intera nobiltà e il servidorame di Napoli. E un'altra raccomandazione, ma questa, figlio mio, è in un orecchio, per te solo. Abbi un pensiero buono per Don Mariano. Egli, il povero guantaio, è l'uomo più colpito in tutta questa storia. Altro non posso dire. E veramente, dopo di ciò, il duca non aggiunse altro. Nemmeno il Neville, del resto. Il volto imbronciato, ma non come per una sola nuvola, bensì come se su tutta la sua anima fosse sceso l'inverno e fosse un grigiore delicato, continuo. Egli era freddo e insensibile ormai a tutte queste storie di innamoramenti e di dame, di dispetti di bimbe e disgrazie di cardilli, e solo recriminava la leggerezza con cui aveva deciso di lasciare Liegi coi suoi dilettissimi amici 1 mese addietro, prima che iniziasse il maggio. Oh, non avesse mai abbandonato la sua casa, la noiosa vita mondana della ricca, solida, fredda, ragionevole e molto per bene società in cui era nato. progettò e dispose il principe, questa volta in pochissime malinconiche ore, la sua partenza per Liegi, prevedendo una sosta, per dir meglio una deviazione, che non sapeva tuttavia se di alcuni minuti oppure di uno o più giorni nella capitale del regno. Qui giunse di venerdì sul mezzogiorno, scendendo di nuovo al triste ormai Cappello d'Oro, dove fu calorosamente riconosciuto e noiosamente riverito da tutti come il più nobile e amato dei clienti, il più liberale, simpatico, eccetera, e non solo, crediamo, per le generose mance lasciate. È che non v'era nessuno, tranne Elmina, che non travedesse per quel viaggiatore fatato. Subito si cambiò d'abito e si recò all'indirizzo di quell'avvocato Liborio, apparente il cognome, che il duca gli aveva raccomandato di incontrare. Non lo trovò. Ricordò invece di aver qualcosa da fare e andò un po' in giro per l'elegante centro di Napoli tra capre e coupé in cerca di un nuovo dono per gli sposi che si augurava riportasse la pace almeno nel suo proprio animo. Visitò ancora una volta a tale scopo alcuni gioiellieri. Presso uno di questi, i fratelli Smith, scelse un dono che doveva secondo lui fare gran dispetto e insieme piacere, almeno per il suo alto costo, alla capra. E consisteva in una gabbietta di purissimo oro con le sbarre tutte incastonate di zaffiri, al centro della quale, su una sticciola mobile che doveva servirgli anche d'altalena, era posato un bellissimo cardillo di smalto colorato, grigie le penne come il fumo o la nebbia, e la testina levata in su spiritosamente a guardare qualcosa. E sia sulla testina che sul petto, anche grigio, una medaglietta rossa che sembrava il sole. E la novità, rispetto ad altri cardilli che aveva ammirato, era in questo, che girando una chiavetta d'oro sul dorso dell'uccello, nessuna paura che scappasse, era assicurato con una catenina a tre anelli infissa nel tetto, l'uccello cantava, cioè, alzando e abbassando la testina ingenua, lasciava uscire dal becco che si era aperto alcune note melodiose che evocavano quasi una barcarola in una notte di luna, un semplicissimo oh oh oh oh oh oh oh oh oh, che sembrava a momenti, a chi fosse stato di udito fine, contenere un pianto. E questo pianto, nell'inconsulto cuore del principe, doveva ricordare ad Elmina quanto nei cuori altrui ella avesse non lietamente lavorato, e al Duprè quanto avesse tradito ampiamente un altro cuore. Incosciente era Neville in questo suo violento appellarsi agli amanti affinché lo ricordassero e ricordandolo lo rimpiangessero e volgessero un tenero pensiero al povero Ingmar. Non siamo tanto d'accordo sul povero e su tutto il resto, ma così, lettore, è il burrascoso e infelice cuore dell'uomo quando improvvisi lo scuotono i venti lunari della giovinezza. Nel primo pomeriggio aveva intanto incaricato il gioielliere di far pervenire al più presto il dono riparatore al pallonetto, egli, rintracciato quel notar Liborio e non avvocato, come aveva detto il duca, introvabile finché qualcuno non gli aveva spiegato che il vero nome del notaro a Napoli contava assai meno del generico soprannome, il quale era, per lui come per tutti gli intellettuali di allora, Pennarulo, don Liborio apparente Pennarulo, uomo di penna. E messolo al corrente sia della sua amicizia col duca, sia del breve tempo di cui disponeva per vedere Napoli, e questo lo disse per convenienza, in quanto non la voleva affatto vedere, anche per averla già abbastanza veduta, sia della sua intenzione di recarsi a porgere un saluto per conto del duca ai familiari di don Mariano, pregò il notaro di volerlo accompagnare in carrozza in quel luogo dove si trovava da tempo, sempre destinata a crescere, tutta una popolazione che aveva ballato, pianto, era stata triste o felice a Napoli dai primi tempi aragonesi. Gente di palazzi e tuguri, di corti, di mercati, di teatri, di chiese, gente che adesso non era più. Questo notar Liborio, uomo sui 50, dall'aria talpesca e afflitta, senza probabilmente esserlo davvero, con molta civiltà acconsentì. Neville, che si era procurato dei fiori, precisò che in particolare desiderava portare un saluto e una prece alla tomba della defunta Brigitte Civile, moglie del guantaio, al che, come nulla fosse, benché dopo aver udito il nome della dama con un piccolo trasalimento si fosse fatto silenzioso, il Pennarulo fu d'accordo, dicendogli «Très bien, monsieur, purché questa cappella la troviamo». «Come?» disse burbero il principe, «la troviamo». Intanto la carrozza svoltava da una stradina colorata nella più ampia e aerea via Costantinopoli. «Che intendete dire, messie? Non ci siete stato prima d'ora? Conoscete però il luogo?» «Oh, pardon! E che vedete, messie? Vi sono ben due, non una sola cappella della famiglia civile. Una è la sua, di don Mariano, dove riposano tutti i guantai della famiglia, ottime e oscure persone che gli dettero mestiere e bontà. Don Mariano è un uomo di grande bontà e ricchezza d'animo, nella sua modestia, solo per questo amato. L'altra...» «L'altra?» chiese interessato Neville. «L'altra è più distante, molto preziosa, molto bella, quella della seconda moglie, che tale però non era, benché avrebbe potuto esserlo, appunto donna Brigitte Helm, che tutti conoscevano a Napoli come Brigitte Civile. Questa cappella, molto importante, non mi ha mai ispirato, ecco perché ho detto se la troviamo. Non ci sono mai stato, ma conosco il luogo». «Messie Civile ha avuto due mogli?» «Non lo sapevo», fece vagamente sorpreso, e molti pensieri scendevano a stormi silenziosi nella sua mente, il principe. «Strano come non ne sia stato informato», soggiunse quasi tra sé. «E come? Poi non volle legalizzare il secondo legame?» «Non che non volle, signore, diciamo che ne fu impedito. Per la verità, la stessa donna Brigitte ne fu impedita, in quanto, in un testamento del defunto colonnello Helm, il vero padre dei suoi 10 figli, era disposto che ella avrebbe potuto condurre, dopo la di lui morte, la vita più libera che intendesse, ma non risposarsi, se non voleva perdere l'usufrutto della intera sostanza patrimoniale. Le sue proprietà personali di donna Brigitte erano passate automaticamente quando si era sposata al marito, tanto benefica a lei e di riflesso, il colonnello conosceva i sentimenti della signora, a don Mariano. E questo, per il nostro guantaio, fu un dolore, anzi, è un dolore. Proseguì meditabondo il notaro. Egli di ciò era malato, perché illegalità vi fu, sebbene apparente, e di questo solo le due ultime figlie erano destinate a pagare le conseguenze. «Capisco sempre meno», disse Neville. «Ma se in ciò vi è qualcosa che non deve essere comunicato ad estranei, non fate complimenti, mon ami, non desidero saperlo». Il notaro per un po' non disse parola. La carrozza era già entrata nella mirabile via Foria, fiancheggiata da bei palazzi. «Guardate là», fece Don Liborio, indicando una palazzina rossa che si distaccava, circondata com'era da un alto muro rosa e verde, coperto di rampicanti dalle vicine case. «Quella che vedete, con le persiane chiuse, era la casa di città di donna Brigitte Helm. Ma ella, dopo la morte dell'ultima figlia avuta dal primo marito, la piccola Floridia Helm, non volle tornarvi più e si isolò a Casoria, lasciando a Don Mariano la cura di Elmina e Teresella, quest'ultima non sorella per sangue, ma presa da un convento, un'orfana, per tenere compagnia alla desolata Elmina. E il suo esilio da Napoli, in certo senso volontario, durò fino a quando la povera donna non abbandonò questo mondo. Fino a un mese fa, credo.